Vorrei dare la parola adesso all'Abbagesse Ghedun, che è un rappresentante, diciamo, del clero tibetano a Roma. Eccolo qui, che tra l'altro l'abbiamo visto l'altra sera al TG1. Grazie. Nella dimostrazione diverse porte di Tibet, centinaia, secondo il numero di Dharamsala, di centinaia di discendenti tibetani morti, questi arrestati tantissimi, questo momento, noi dire, comunità internazionale, Italia deve salvare tutti questi tibetani sotto arresti, sotto accuse, per la cosa dimostrazione, per la democrazia e libertà di tutti. Amati da tutti i mondi, democrazia e libertà, essere umani non può esprimere o muovere il loro spirito e la loro forza di anima. Per questo noi chiediamo le grazie a tutti i tibetani, forze politiche. Io sono molto contento di stare qui per condividere la mia opinione, per ringraziare dal cuore, come tibetano, devo dire al Dalai Lama che ha fatto già un piccolo miracolo, perché è l'unica cosa su cui si mettono d'accordo tutti i partiti in Italia, diciamo. Il Dalai Lama è l'unica cosa su cui tutti i partiti italiani sono d'accordo, quindi è già questo un grande piccolo. Quando ho sentito prendere il telefono, questo per portare appuntamento, il mio fratello si era organizzato da diverso giornale, questa cosa molto, io mi ho sentito partecipare a questo giornale, una cosa unica, media, per noi comprendere la situazione reale. Oggi, quando è venuto qua, è arrivato qua, ha visto tutto questo fondo politico, inizi nella forza, per la appoggio, per la Tibet, tibetani, soprattutto tibetani in Tibet. Tibetani in Tibet in questo momento vivendo molto male, non solo oggi, in questo momento anche 50 anni, ultimi 50 anni sotto la regime dittatura, posto completamente messo sotto. Tibetani in Tibet diventato schiavitù nella propria paese, ultimo momento, questi giorni, esplosione di loro, repressione di 50 anni, non è una cosa scadere perché è motivo Olimpia, una repressione, tutta più repressione, così esce più grande esplosione, questa esplosione grande perché repressione degli ultimi 50 anni, per questo comunque tibetani non possono vivere così, fine anche rimane un solo tibetano, comunque noi continuiamo la nostra lotta per libertà e democrazia per Tibet, anche per Cina deve diventare per forza, democrazia prima o poi, il più possibile. Grazie a tutti, grazie. Grazie, grazie.